170. Fritto di semolino. Semolino di grana fine, grammi 70-80. Latte decilitri 3. Uova numero 1. Zucchero 3 cucchiaini. Burro quanto una noce. Sale un pizzico. Odore di scorza di limone. Ponete il latte al fuoco col burro e lo zucchero e quando comincia a bollire versate il semolino a poco girando in pari tempo il mestolo. Salatelo e scocciategli dentro l'uovo, mescolate e quando l'uovo si è incorporato levate il semolino dal fuoco e distendetelo sopra a un vassoio unto col burro o sulla spianatoia infarinata. All'altezza di un dito. Tagliatelo a mandorle e mettetelo prima nell'uovo sbattuto, poi nel pan grattato fine e friggetelo. Spolverizzatelo di zucchero a velo se lo desiderate più dolce e servitelo solo o meglio per contorno a un fritto di carne.